Ladies and gentlemen, the outrageous, the wonderful, the one and only Lenny Bruce. Concilio ecumenico ha concesso al Papa di farsi monaca, ma soltanto di venerdì. Cerchino, il secondo spettacolo. Scusate, amici. C'è un King Kong al secondo spettacolo. Volevo avvertire i fotografi di non usare i flash. Sapete, chi si incazza se usate flash. Datevi soltanto un aereo da stritolare, un palazzo, lui si diverte così. Vedete, amici, è buffo perché. Seduto davanti, ho drogato fino ai capelli, lo prenderò in considerazione. Molti di voi si domanderanno perché questi impermeabili. Il motivo di questi impermeabili è che, come molti di voi sanno, l'ultima volta sono stato arrestato a Los Angeles, l'ultima volta per oscenità, non mi hanno portato via, non mi hanno dato il tempo di prendere il mio cappotto. Siccome qui da voi oggi fa molto freddo, se loro vengono io sono pronto. C'è la polizia, sapete? Mezzanotte c'è la polizia lì. C'è qualche avvocato qui? Lei è un avvocato? C'è qualche avvocato? È un avvocato, lei? Tutti i soldi che ho. Vengo da un giornale. Questo è per voi, eh? Questo è per voi. Vengo da un giornale di Chicago. Di quei poliziotti travestiti. Si travestono da donna per adescare i finocchi. La gente Stanley Dolan, Stan per gli amici quando si infila con l'altro, ha detto che la cosa più difficile del suo servizio è stata imparare a camminare sui tacchi alti. Trovo molto forte. così ingenui, così ingenui. Pensate al tizio che sta per abbracciarvi e cosa gli dite? Amico, non puoi toccarmi, io sono poliziotto, non puoi. No, ma loro se ne fottono. Ehi, amico, non me ne frega un cazzo se sei uno sbirro, c'è un bel culo, io voglio fartelo. Non è carino. Non è carino istigare. Gente malata. Avete capito di chi sto parlando? Sto parlando del Vietnam. Sì. È come il cattolicesimo, come una catena di ristoranti, sì, un grosso palto. Come il presidente, no? Non sono un comico. Io sono Lenny Bruce. Si siede. Lenny Bruce, nato a Mineola, New York, il 13 ottobre 1925. Il soggetto è stato accusato per aver presentato una performance oscena al Club Café Ogogo di New York in violazione della legge penale dello Stato. Fra le varie cose, lei ha detto che Jackie Kennedy non ha cercato di aiutare suo marito durante l'omicidio a Houston, come invece abbiamo visto tutti in televisione, ma usando le sue parole si è cagata addosso e ha cercato di scappare. Lei afferma che la moglie del presidente ha delle tette da paura e che se la scoperebbe volentieri. Lei parla di fare sesso con le pecore e con le galline. E dice che Rock Hudson e Superman sono froci e si fanno di supposte di glicerina e criptonite. Lei dice che il Papa fa sesso regolarmente, ma da bravo cristiano smette di scopare durante la quaresima. Che il cancro è una benedizione per l'economia. E che Dio non soltanto è schizofrenico, ma ha anche seri problemi di tripla personalità. Signor Bruce, queste sono gravi offese, queste sono gravi accuse di oscenità. Si dichiara colpevole o innocente? Innocente, vostro onore. Aggiungerei anche che John Wayne è un comunista latente. Signor Bruce, dov'è il suo avvocato difensore? Con il permesso della corte vorrei difendermi da solo. Signor Bruce, questa è una stupidaggine. Vede, signor giudice, non vado più d'accordo con i miei legali. Vede, questo è il terzo processo negli ultimi 4 anni. Già, sì, ma negli altri 2 sono risultato innocente. Se lei vuole risultare innocente anche in questo processo, le consiglio di trovarsi un avvocato. Se vuole posso accordarle una deroga, dargli il tempo di cercare qualcuno che la possa difendere con competenza. Vostro onore, ormai da più di 2 anni studio libri di legge perché ho capito che nessuno può difendermi meglio di me stesso. E inoltre le continue spese processuali mi hanno ridotto all'astrico e nessuno mi fa più lavorare. Il mio consiglio è che lei chieda una deroga. Se lei lo farà, io le accorderò questa deroga in modo che lei possa trovarsi un avvocato. Signor giudice, io quello che le chiedo è soltanto parlare con la corte o con lei o con qualsiasi altro essere umano senza troppe complicazioni e troppe balle della cosa. Lei sta rendendo tutto molto difficile per me. Vede, i miei avvocati continuavano a dirmi: lascia perdere Lenny, se anche perdiamo questa causa non importa perché c'è il rinvio a giudizio, sono un'altra manica di coglioni che non... Signor Bruce, moderi il suo linguaggio. Signor giudice, io non so perché devo difendermi, io non ho commesso alcun reato, io voglio soltanto tornare a fare il mio lavoro, io non... Signor Bruce, lei mi sta facendo perdere la pazienza. Signor giudice, se lei mi permette di fare il mio show qui davanti alla corte, io correrò i miei rischi. Se dopo aver visto il mio show lei riterrà che non ha alcun valore sociale, alcuna utilità, se lo troverà anche scurrile, volgare, osceno, io correrò i miei rischi, mi creda, davanti alla corte. Non posso permettergli di continuare, signor Bruce. Questo non è un club, è un'aula di giustizia. Vostro nome, io so che lei è una brava persona, io ho molta stima. So che questo è il sistema legale migliore al mondo, ma lei non mi fa parlare, non mi dà la possibilità. Quando io continuo a ripetere nei miei spettacoli tette e culi, non lo faccio solo per dire la parola tette e culi o per rendere volgare qualcosa, lo faccio perché continuando a ripetere quella parola tette e culi, culi e tette e culi, il punto che voglio focalizzare è che tutti noi viviamo in una società falsa e ipocrita. Lei non mi lascia altra scelta che richiamarla all'ordine, con conseguenze disastrose per il suo processo. Lei rischia una condanna indirettissima per vilipendio alla corte. Allora mi condanni subito. Signor giudice, mi condanni subito. Non ho più un soldo, non posso lavorare. Posso essere condannato? No, non la condannerò oggi, signor Bruce, perché lei mi dica. Questa è un'aula di giustizia dello Stato più democratico del mondo. Ci sono delle regole, signor Bruce, alle quali tutti dobbiamo sottostare. E le regole mi dicono che anche lei è cittadino di questa nazione e come tale ha diritto ad un processo che sia giusto e secondo le regole. Chiedo però che lei venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. Cerca di tapparmi la bocca, vuol farmi sembrare pazzo. L'udienza è aggiornata. Scuola dura, ma scrivevamo temi dal titolo Cosa farò se diventerò grande? E grande poi scopri tante cose. Scopri ad esempio che ci sono malattie che vengono sfruttate dalla gente per collette offerte, malattie che non sono particolari, il cancro, distrofia, tubercolosi. Questo suono particolare. Cioè, ad esempio, la bronchite non fa fino. La bronchite sa di povero, di ebreo. Il colera sa di nero. La gotta invece a classe, eh? Sì. Sì. Abbiamo la gotta. Abbiamo preso l'estate scorsa a Londra. Ma c'è una malattia che nessuno ha mai sfruttato. A nessuno è mai venuto in mente di battere alla tua porta per combattere lo scolo. Ehi, amico, sono della campagna nazionale antiscolo. Va bene, ti do sti soldi. Vorrei sapere se veramente poi arrivano nelle tasche degli scolati. Lo scolo, già. Di leucemia puoi andare avanti tutta la vita, perché non esiste una cura valida. Ma lo scolo lo combatti con due pastiglie. Allora, come mai va così forte? E come mai la gente ha quasi paura a nominarlo? Scolo. Scolo. Sia tranquilla, signora. Suo marito ha soltanto un pochino di sgocciolio. Devo chiamare l'idraulico, dottore. Sì, faccia stringere bene il tubo. Vedi, di leucemia ti ammali per cause rispettabili. Ma lo scolo lo prendi se fai porcate, se vai con le signorine. E allora chi fa porcate merita certe malattie. Insomma, tua figlia potrebbe morire dissanguata per un aborto clandestino, perché se ti dicesse che aspetta un figlio sarebbe sicuramente una sbadrina. Ma suo fratello, tuo figlio, pensi che ce l'avrebbe il coraggio di dirti che ha un tantino di scolo? Al massimo andrebbe dal negro della farmacia. Ehi amico, vieni qua. Cosa volevi, amico? Senti, c'ho lo scolo. Ah, come l'avete preso? Come vuoi che l'abbia preso, lavando la macchina, stronzo? Ce l'ho e basta, insomma. E cosa volete da me? Dammi qualcosa, una medicina. Tu la vuoi in farmacia, te ne intendi? Dare pastiglie. Fanno bene? Se guarisci, sì. Ah, bene, perché, sai, ho trovato lavoro e non voglio darmi malato per lo scolo. Che lavoro fare? Ho trovato lavoro in una fabbrica di carne in scatola. A proposito, vuoi delle bistecche? No, amico. Ma nella mia campagna nazionale antiscolo non ci saranno i soliti bambini storpi con le stampelle. No, io voglio dirvi del cinema. Amici, questa sera abbiamo raccolto $700,000 per lo scolo. Io vedo già un'attrice di Hollywood famosa che lancerà la mia campagna pubblicitaria. Signore e signori, devo ringraziare l'organizzazione. Da anni io e mio marito avevamo lo scolo, ma non ce l'avamo mai accorti. Oddio, ci pareva strano che il nostro primo figlio avesse il testone così grosso. Ma come tutti ci vergognavamo a dirlo. Poi abbiamo trovato questo opuscolo, Alt allo scolo. Lo abbiamo letto, lo abbiamo fatto vedere al nostro medico e lui è rimasto stupito. Abbiamo scoperto che anche lui l'aveva, lo scolo. Già. Però vedete amici, ecco la musica. Però vedete amici, lo scolo non lo prendi se fai l'amore con tua moglie, se fai l'amore solo con la tua donna. Ah, e io amo mia moglie, amici. Oh, come la amo! Adoro mia moglie. Ed è giusto adorare la propria donna. Già. Ma se lei ti becca a letto con una succhia cazzi, nega, nega, nega sempre. E lei ci cascherà. Tesoro, io questa tipa non la conosco, mi è piombata in casa con un cartello al collo. O ti succhio il cazzo muoio, cosa dovevo fare? Bisogna sempre nascondere, bisogna sempre negare. Perché far l'amore è una cosa sporca? È una donna che ogni sera va a letto con un uomo diverso, data la sua grande capacità d'amore, è più cristiana di una suora monaca. E invece dobbiamo sempre nascondere, sempre negare, sì. Questa cosa non riesco mai a capire, perché dobbiamo sempre negare? Come andare al gabinetto. Non c'è niente di male ad andare al gabinetto. È una cosa fisiologica, è un bisogno. Eppure, amici, io non riesco a dire davanti a voi, ai vostri occhi, il gabinetto. Se sono a casa vostra devo dire dove posso lavarmi le mani. Ah, nella stanza dove c'è l'armadietto dei medicinali. Sì, esatto. Devo giusto cacare nella scatola delle pastiglie per la tosse. Bisogna sempre nascondere, sempre negare. Quante cose ci sono nascoste? Anche Dio ci è nascosto. A proposito, voi come ve lo immaginate Dio? Capelli bianchi, barba lunga, senza uccelli. La religione. Vedete, io sono ebreo, qualcuno di voi è ebreo. La gente si ferma a chiedermi perché la mia stirpe ha ucciso Gesù Cristo. E io non so mai cosa rispondere. È stato un incidente. Il nonno ha esagerato. È stato un inconveniente, di quelle cose che ti scappano di mano, insomma. E allora mi sorge un dubbio. Qual è la differenza tra un prete e me? Il fatto è che oggi c'è gente che muore di fame. A New York c'è gente che vive in 15, 20, 25 persone in una stanza infestata dai topi. Ma questo è diverso che parlare degli affamati dell'India o dell'Africa. Queste cose ci commuovono, ma solo se succedono dall'altra parte del mondo. Già. In realtà, questa gente che muore di fame a New York viene trattata male nel paese più democratico del mondo, nel paese più ricco del mondo. Già. Ma questo poco importa. La stessa America, che per mettersi la coscienza in pace, fa una donazione ai profughi cubani o agli orfanelli brasiliani. Sì, l'America dei negri, che ogni giorno si battono per i loro diritti umani, gli stessi che sono americani da generazioni, gli stessi che hanno combattuto per la patria, gli stessi a cui l'America stessa non gli concede nemmeno l'uso del bagno pubblico. E allora qual è la differenza tra un prete e uno come me? Io penso che a volte Dio, ai suoi fedeli, i preti appunto, ha dato un dono, tre doni, ma per condizione umana l'uomo può riceverne solo due. Ha dato il dono dell'onestà, dell'intelligenza e della religiosità. Sono uomini di fede. Ma questa condizione umana non te ne fa contenere più di due. E allora quindi se un prete è onesto e religioso, non sarà intelligente. Ma se un prete è intelligente e religioso, non sarà onesto. Se onesto e intelligente, non sarà certo un prete. E allora penso che se Gesù tornasse sulla terra, andrebbe direttamente dal Papa e gli direbbe: ehi amico, cosa fai qua? Cos'è quell'anello d'oro e tutti quei calici d'oro? Ma non lo sai che mentre tu sei qui a pregarmi c'è una negra incinta con in braccio l'altro bambino che viaggia in piedi sull'autobus per il Queens perché non ha diritto a sedersi? E lo sai che se Mosè tornasse, andrebbe dai rabbini a dire: amici, cosa sono tutti questi abiti preziosi, questi ornamenti? Forza, vendete tutto e pagate le cauzioni dei vostri fratelli. I vostri fratelli che attendono di entrare nella camera a gas o di sedersi sulla sedia elettrica. Già, cosa vuol dire non ammazzare? Vi siete dimenticati i comandamenti? Vuol dire non ammazzare però... Musica. Pompino. Succhia cazzi. Negro. Puttana. Sborra. Tette. Merda. Vienimi in faccia. Buttamelo dentro. Inculami. Questo è quello che si sente quando si assiste ad uno spettacolo di Lenny Bruce. Nomina Padre, et Figlio, et Spiritus Sancto. Religione. Se questa parola vi offende, benvenuti nel pensiero sano e razionale della vita. Ogni giorno un uomo si allontana sempre più dalla Chiesa e si avvicina a Dio. Sì, perché la religione ha fatto più danni alla psiche collettiva dell'uomo che tutto lo scopare e soffiare il cazzo fin dalla notte dei tempi. Allora io penso che intanto ci sarà qualcuno che non avrà alcun abito da mettersi addosso. Chiunque si proclamerà leader religioso disponendo più di due abiti, beh, amici, per me quello sarà un approfittatore. Provocatore, la provocazione non può restare impunita. Potrei anche essere d'accordo con le sue idee, ma non posso supportarlo. I suoi spettacoli sono orribili, sono sporchi fino all'estremo, offendono il senso del pudore, eppure attraggono tanta gente. Certo, ridurre al silenzio Lenny Bruce è contrario ai principi della democrazia. Ma è giusto che la società sia minata così profondamente? È giusto che un comico o un artista, come lui si definisce, possa mettere in pericolo le basi della nostra democrazia? Che cosa succederà quando l'oscenità verrà accettata come arte? Quando un comico potrà dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, come se fosse un senatore dello Stato? Se l'oscenità viene usata soltanto per scioccare, per divertimento, oppure, come dice Lenny Bruce, soltanto per parlare sporco, allora io non capisco che ruolo abbia nella nostra società, non ne capisco l'utilizzo, non mi diverte per niente, anzi, non so se mi fanno più schifo i suoi spettacoli o la gente che assiste e che ride a quella roba. Signor Bruce, la sua perizia psichiatrica è risultata negativa, lei sta benone. E nonostante questo, vedo che si è ripresentato di nuovo senza avvocato difensore. Leggo nel suo dossier che il suo spettacolo è sporco e di cattivo gusto, che la sua comicità risulta basata su un repertorio di battute e concetti volgari e spinti. Lei, signor Bruce, ha contemporaneamente mostrato le più becere qualità come artista e come cittadino. Lei ha rinnegato e confuso l'etica civile che prima la famiglia e poi lo Stato le hanno impartito. Davvero, signor giudice, ho fatto tutto questo? Dagli atti sembra proprio così, signor Bruce. Beh, allora mi giudichi colpevole. Ero colpevole prima di iniziare questo processo, sono colpevole per definizione. Dovrei forse dichiararla innocente? Innocente? Innocente? Beh, mi piacerebbe, innocente. Eh sì, innocente. Ma vede, in nessun luogo mai sarò veramente innocente. Uscendo di qui, girando per strada o frequentando un locale, qualcuno verrebbe a dire che oggi io me la sono cavata. Sì, me la sono cavata, che i vermi come me dovrebbero stare in galera e non liberi di girare a dire tutte quelle porcate, quelle oscenità, perché siamo nel paese più democratico del mondo. Già. E la gente deve sapere come comportarsi. Dico bene? Ma questo non è un problema mio, voi avete già deciso, voi siete nel giusto. Signor Bruce, lei è un uomo abile con le parole, ma con le parole lei si sta scavando la fossa. I suoi spettacoli traboccano di oscenità, le parole che lei usa sono volgari, di cattivo gusto, offensive. Questa corte è per definizione imparziale, si pone sopra le parti, non offende la corte se non vuole che questo processo si trasformi nella sua fine. Vostro onore, se io uso quelle parole perché perdono di significato? Sì, ma sono e restano delle oscenità. Ma diventano suono. Le parole sono quello che sono, parole sono parole, oscenità sono oscenità, si può farne a meno. Ma lei non si vuole dare questa possibilità. E così facendo lei non mi lascia altra scelta, questo lo capisce? No, perché voi non mi state giudicando per le parole, ma per una questione di morale. Sì, perché vi ritenete esseri immorali voi, ma in cuor mio non ho mai trovato nessuno che proclamando la sua moralità non si sia rivelato poi una bestia. Signor Bruce, come si permette? Il nostro vero nemico è lo spirito religioso e sottomesso che domina questa società. Sì, è un retaggio che sotto la parola morale incide sulla violenza sulla gente. di questa società nella quale anche lei è nato ed è cresciuto. E questa nostra comunità si basa esattamente su questi valori morali. Sono questi i valori che ci hanno permesso di superare le prove più dure. La guerra, la crisi economica. Le nostre famiglie sono sane proprio grazie a questi valori che invece lei denigra. Ma se la società impone un comportamento al cittadino, questo perde la sua identità, diventa un concetto senza sviluppo. Ma se questo cittadino si macchia di gravi immoralità? Io credo che la peggiore immoralità sia quella di accettare gli schemi morali del proprio tempo senza metterli in discussione. Signor giudice, questa è immoralità. Alla fine abbiamo divorziato. Io e mia moglie, alla fine abbiamo divorziato. Sì, perché viene un momento nella vita che devi far capire che sei un uomo. Cioè, vuoi far un po' capire chi porta il pantalone, chi comanda. È stato quando lei mi ha piantato. E quando vieni piantato, la cosa importante è che capisci l'orario in cui vieni piantato. Voglio dire, se rompi nel mezzo della notte, alle 3 di notte, non sai dove andare. No. E non puoi chiamare i tuoi amici a quell'ora della notte. La cosa giusta è rompere con lei un pomeriggio di sabato. Abbandoni il tetto coniugale e vai al cinema. Già. Così non ti ritrovi come uno stronzo sul pianerottolo, un mucchio di vestiti in mano, la porta chiusa alle spalle. E non ti vanti più di non conoscere nessun vicino di casa. Già. Quando abbiamo rotto, alcuni giornali mi hanno chiesto: Lenny, che è successo al vostro matrimonio? Cos'è successo al nostro matrimonio? Si è sfasciato per colpa di mia suocera. Suocera, peccato. Com'è successo? Una sera mia moglie è entrata prima del tempo e mi ha trovato a letto con lei. Con la suocera, che perverso. Perché? È la sua madre, mica la mia. Vedete, dicono che io parlo sporco perché sono volgare, ma perché dico sempre quella parola succhia cazzi. Ma se questa parola succhia cazzi vi offende, chiedetevi il perché. Voglio dire, le donne sono succhia cazzi, ma la cosa più fa è che anche molti uomini sono succhia cazzi. Ma sapete qual è la cosa ancora più buffa? È che gli uomini che non sono succhia cazzi non hanno alcun problema ad andare con le donne che praticano questa attività, ma hanno grossi problemi con gli uomini che lo fanno. Perché? Forse perché hanno paura anche loro di diventare dei potenziali succhia cazzi. Ehi amico, io sono succhia cazzi e tu sei pazzo a dirlo. Ma se non lo dico, come faccio a trovare dei cazzi da succhiare? Dammi luce, togli musica. Cosa stai scrivendo? Non credo che tu stia scrivendo a caso, vero? Perché ho detto succhia cazzi? Cerca di capire il concetto. È un'espressione, il contesto. Scusate amici, ma tutte le volte che c'è qualcuno che scrive i miei spettacoli io mi spavento. Perché poi il giorno dopo mi tocca rifare lo spettacolo davanti a un giudice. Sì. Non vengo neanche pagato. Perché quello che poi mi portate al giudice è solo che ho detto succhia cazzi. E non il contesto. Perché? Allora cambiamo argomento, musica. Cambia argomento. Parliamo, amici, parliamo di patriottismo. Patriottismo, gran bella cosa, la vuoi per la patria. Siete pronti a morire per la vostra patria? Siete pronti? Quando ci penso, mi viene sempre in mente quel tale Francis Gary Powell, sì, quell'americano, quel pilota americano che è stato catturato in Russia e tenuto prigioniero per 2 anni, è riuscito a scappare e è tornato da noi. Sì. 2 anni, ma lui non ha rivelato alcun segreto militare. Non ha parlato, lo hanno torturato, ma lui... E voi? Siete pronti a morire nella vostra patria? Che differenza c'è tra lui e voi? Se mi catturassero, io non parlerei. Ehi, Khrushchev, puoi torturarmi quanto vuoi, ma non saprai assolutamente nulla da me. Nessun segreto. Che cos'è quello? Un cristiere di piombo fuso. E dove vuoi metterlo? Nel mio buco del culo. Sai che mi stanno venendo in mente delle cose? Ma stai, sto ricordando tutto. Ma so tu, eh? Ma cosa vuoi sapere? Chi ha ucciso Kennedy? Ehi, vuoi sapere come sta andando in Vietnam? Vuoi l'indirizzo di Marilyn Monroe? Vuoi l'indirizzo di mia moglie? Vuoi qualsiasi altro segreto? Non ho problemi. E sapete perché direi tutto? Perché a me un cristiere di piombo fuso nel culo non mi va. Proprio non lo sopporto. Che c'è? Questa volta non ho detto su che cazzo ho detto buco del culo. Se può dire buco del culo. Io ci credevo. Ci credevo io che da una parte ci fossero i buoni e dall'altra i cattivi. Sì. Chi c'era? Chi mentiva e chi diceva la verità. E invece no. Ciò che dovrebbe essere non è così. Vedete un maniaco sessuale qualsiasi. Quello che prende vostra figlia di 8 anni, la porta al parcheggio del supermercato e la stupra, e poi la uccide. E scoprirete un ragazzo che è cresciuto secondo i canoni, i buoni canoni religiosi. Perché suo padre diceva sempre a sua sorellina di coprirsi, doveva coprire quelle cose, anche da piccola, anche se era così piccola. E lui è cresciuto continuando a ripetersi: un giorno scoprirò quella cosa brutta che papà dice di coprirsi, e se è così brutta come dice papà, la ucciderò. Anche lui credeva che questa fosse la verità. La verità è ciò che è, non ciò che dovrebbe essere. Ma la gente continua ad adeguarsi. Vedete, dicono che io parlo sporco, che sono volgare, che certe cose non posso dirle a voi questa sera. Posso pensarle, ma badate, non posso dirle. Posso anche farle di nascosto, ma non posso dirle. Perché? Perché, amici? È tutto così complesso. È come se a Gesù avessero detto quali tipi di miracoli si poteva fare e quali no. Cosa? Resuscita i morti. Non può permettersi. Può moltiplicare i pani e i pesci, tramutare l'acqua in vino, magari sanare qualche leproso, ma non può assolutamente resuscitare i morti. Come osa? Come osa? Ma vedete, se Gesù fosse morto soltanto 20 anni fa, i bambini oggi, al collo, al posto di un crocifisso, avrebbero delle piccole sedie elettriche. Allora, la Giulia si è espressa? La giuria non si è espressa sul caso Lenny Bruce. La giuria non riesce a chiudere il caso e chiede che sia il giudice a farlo. È vero che tu hai subillato i cittadini, minando le basi della nostra società. Ascolta, giudice. Ma perché non mi stai ad ascoltare? Nome. Il mio lo conosco. Lenny Bruce. Smettila di fingerti più stupido di quanto tu non sia veramente. Qual è il tuo vero nome? Lenny. Leonard Alfred Schneider. Leonard Alfred Schneider. Volevi veramente la distruzione della nostra società? È per questo che istigavi il tuo pubblico? Io non ho mai istigato nessuno. Perché sai, tanta gente viene ai tuoi spettacoli. E fra questi ci sono politici, ci sono commercianti, ci sono professionisti, impiegati, ci sono gli operai. E c'è anche qualche anarchico come te. Il tuo dossier è scritto chiaro e tondo. Istigava alla destabilizzazione e alla distruzione della società. Quelli che hanno compilato quel dossier non sono stati attenti ai dettagli, non hanno compilato bene, non hanno riportato esattamente quello che io... Smettiamola di prenderci in giro. Quanto è scritto in quel dossier è sufficiente per mandarti in galera per parecchio tempo. Va bene, i poliziotti mi seguivano e scrivevano quello che dicevo, ma non potevano scrivere tutto, scrivevano solo quello che volevano. E allora che cos'è che avresti detto durante i tuoi spettacoli? Giudice, se tu mi avessi fatto fare lo show durante il processo. Io ho solo detto che era giunto il momento di distruggere il tempio dell'ipocrisia e di innalzare quello della verità. Ma non ho mai parlato di distruzione della società. Tu semplifichi tutto. Tu hai in mano la verità. Illumina. Volentieri. Per me dire la verità è semplice e facile. Sai che non mi interessa sapere quanto semplice e quanto facile sia per te dire la verità. Io voglio sapere qual è la tua verità. Perché per come la vedo io, tu ti stai cacciando nei guai molto seriamente. La verità è ciò che è, non ciò che dovrebbe essere. Sei un grande filosofo. Ciò che dovrebbe essere è una grande menzogna. E anche tu lo sai. Sì, che viviamo in un mondo di ipocrisia. Ma non hai la forza di ribellarti, guarda. Non lo pensi nemmeno di aver ragione, ma lo dici. Fermati un attimo. Fermati a riflettere, a pensare. Vai lontano se vuoi. Sarai d'accordo con me che non puoi passare tutta un'esistenza a eseguire ordini? Avvicinati. Avvicinati. Tu vuoi la distruzione della società per come la conosciamo noi? Io non ho mai voluto questo, ti sembra un demente? No, anzi. Quindi tu mi puoi giurare che non hai mai istigato nessuno per la distruzione della società, la distruzione fisica? Sì, non ho mai istigato nessuno. Te lo giuro, sì. Perché sai, io posso capire perché per tanti tu sia così importante. Potrei anche condividere le tue idee sulla verità. Ma sono felice che tu puoi accettare le fondamenta della società per come sono, che tu non cerchi di distruggerla, ma ti limiti soltanto a criticarla. Ma in virtù dei discorsi folli e utopici di Lenny Bruce, che potrebbero essere causa di turbolenze, la obbligherei a rivedere il linguaggio dei suoi spettacoli affinché non traggano in inganno le menti più deboli, che così sarebbero portate a muovere violenza fisica o ideologica contro la società stessa che le ha generate, contro la sua struttura di potere, contro coloro che detengono il potere. Mi stupisce che non voglia il potere stesso si basa sull'ignoranza. Quando parliamo di droga, prostituzione, politica, tutto quello che diciamo non è quello che è. Quando gli uomini della Chiesa non si espongono direttamente contro i politici corrotti e corruttori, quando si accettano gli eserciti delle nazioni più ricche facendo i loro sporchi comodi in giro per il mondo, Sì, e noi paghiamo miliardi di armamenti dove non ci sono soldi nemmeno per le scuole. Quando le multinazionali dettano le condizioni ai paesi ospitanti, le stesse multinazionali che poi ti rubano l'acqua che bevi, l'aria che respiri, dicendoti che per il tuo bene, sì, il tuo bene, e poi ti obbligano a lavorare sempre di più, così che tu hai la concezione che l'economia va bene. Sì, intanto tu ti ritrovi senza più tempo per te stesso, per la tua vita, per i tuoi figli. Ma tutto quello che diciamo... Potere, menzogna e violenza. Menzogna alla gente, violenza sulla gente. Prima o poi l'uomo capirà il valore della verità. Allora scoppierà una rivoluzione, che tu ci creda o no, la mia rivoluzione è fatta con le parole. Prima, ho finito. Allora ti dico io quello che penso. Io penso che le tue parole ci fanno vedere la natura con più chiarezza. Quello che tu ci indichi è che la natura manca di senso. Tu ci mostri la sua strana brutalità, la sua totale incompletezza. Non che io abbia paura. In una casa, noi siamo a nostro agio. Tutto è studiato per il nostro benessere, il nostro utilizzo. L'egoismo stesso, che è così fondamentale per dare un senso alla dignità umana, non è altro che il prodotto della vita domestica. Perché agli occhi della natura io sono soltanto un animale. E non esiste una società migliore della nostra. Questa è la nostra casa. Forse non è perfetta, ma non esiste un'altra migliore. E tu sei un pazzo criminale se cerchi di distruggerla. Perché ci sono voluti secoli per ottenere un senso del giusto, del diritto, del dovere, del pubblico, del privato. E quello che ti chiami il potere non è altro che una funzione necessaria per garantire la vera libertà all'uomo. Darsi. Ma io sono qui perché ho detto succhia cazzi. Succhia cazzi. Succhia cazzi. Incitare a comportamenti lascivi è un atto criminale. Ma come sono autentici bugiardi con le loro coraggiose affermazioni, con la loro mancanza di responsabilità. Uno sdegno nei confronti di qualsiasi tipo di prova. Ma come fai a dire che viviamo in completa libertà se la mia condizione di essere umano non posso dire che io nella mia condizione succhia cazzi? Ma come fai a non capire? Chiedo scusa se non posso capire. Chiedo scusa. Ma vedi, qualsiasi condizione tu poni all'artista o al cittadino, fermi il suo parere. Ascoltami, se tu questo non lo capisci ancora, tu non lo capisci. Sì, ma anche se tu sei un artista, come tu ti definisci, tu devi capire che vivi in una società dettata da regole, da principi, che c'è un'opinione pubblica alla quale anche tu stesso devi sottostare, oppure preferisci vivere in una società anarchica? È questo che preferisci? Tu vuoi l'anarchia? No, non voglio l'anarchia. Non la voglio l'anarchia. Credimi, la folla è peggio. Molto, molto meglio un dittatore, un despota, spiegare che sia intelligente. Ma credimi, la folla non lo è. Segretario, metta a verbale. Le affermazioni di Lenny Bruce sono contrarie ai principi della democrazia. Ma quale democrazia? La mia o la tua? La tua è totale intolleranza nei confronti di ogni forma di autorità. Ma cosa devo fare? Devo sbavare davanti alla prossima pinata di Playboy? Perché lo fanno tutti e dire, ehi che figa, quando magari mi piacciono le grasse, le vecchie, o magari un uomo, ehi, a Lenny Bruce piacciono gli uomini. No, perché l'opinione pubblica mi condannerebbe. Ma chi credi che componga l'opinione pubblica? Noi siamo l'opinione pubblica. Condannandomi sbagliati, ammettete tutta la vostra stupidità. Se una società ha bisogno di un capo espiatorio per nascondere le proprie menzogne, allora è giusto che venga distrutta. Non ti permettere, non ti permettere. Come fai a parlare così? Chi sei tu, un santo? O forse il dito di Dio ti ha toccato? Perché se così fosse, Dio avrebbe fatto un errore terribile. Come fai a non capire le conseguenze di queste tue parole? Il tuo è puro egoismo. Non parlarmi di egoismo. L'egoismo è chiedere agli altri di vivere come noi vorremmo vivere. Lei è un suicida. Non sarebbe stato preferibile per il suo futuro scendere a compromessi con quello che lei reputa il suo nemico? Lei è in una posizione invidiabile, la gente la segue, la imita, lei è pericoloso. Finora lei si è comportata in maniera abile, anche se spregiudicata, riuscendo a sfuggire alle maglie della giustizia. Ma è giunto il momento di pagare, perché noi tutti prima o poi dobbiamo pagare. Adesso è il suo momento. Giudice, fai una cosa giusta. Lasciami andare. Lei è un pazzo. Lei crede che un onorato giudice nella mia posizione potrebbe lasciare andare un uomo dopo quanto mi ha detto? Io potrei anche condividere le sue idee. No, non le condivido affatto, sono spazzatura. Non sono verità, sono spazzatura. La verità non è ciò che è, come lei va dicendo, ma ciò che è giusto che sia. E lei si è condannato con le sue stesse mani perché non ha mai voluto capire il rischio che lei pone per la società. Lei è un fuorilegge, lei è un provocatore, lei è una scintilla che può far incendiare tutta la prateria. Io questo non posso permetterlo. Non la posso lasciare andare. Diverte così tanto, faccia di me quello che vuole, ma lo faccia in fretta perché sono distrutto. Voglio dirvi una cosa, è una cosa importante per me. E quando la dico vorrei che non faceste pazzie, tranquilli. Io lo dico, non è una novità, però morirò giovane, già, ma sarà bello, sarà come baciare Dio, su questa terra ci sono delle persone che vagano chiedendo di essere uccise, dovete averle notate. Litigano con tutti, scendono furiose dalle loro automobili se qualcuno ha urtato i loro parafanghi, umiliano, fanno i prepotenti con persone di cui non sanno niente. Ho visto un tizio l'altro giorno qui fuori, un imbecille, fare deliberatamente arrabbiare un gruppo di persone, dei teppisti, pur senza avere la minima possibilità di difendersi. Questa è gente che vaga per la terra urlando uccidetemi, uccidetemi. E c'è sempre qualcuno disposto ad accontentarli. Leggiamo di loro tutti i giorni sui giornali. E Lenny Bruce era uno di questi. Io non ho potuto salvare Lenny Bruce, perché la società deve sopravvivere e con essa l'ordine delle cose. Perché parlare apertamente di sesso, di violenza, di perversione, di droga, vuol dire accettarla, vuol dire renderla normale. Criticare la politica, la religione, vuol dire spingere un sistema che funziona, che funziona verso il suo decadimento. E non esiste una società migliore della nostra. Forse non è perfetta, ma non esiste un'altra migliore. Lo so! È così. Io non ho niente contro Leonard Alfred Schneider. Ma non possono vedere quello che rappresenta Lenny Bruce. Lenny Bruce non è stato condannato per le sue oscenità, ma per le sue idee sulla morale, sullo stato delle cose. È un sovversivo. E come giudice di questo paese io non avevo scelta. Ho dovuto condannarlo. Sono un giudice o sono un uomo? Giudice, che cosa rimane della vita di un uomo? Delle sue fatiche, della passione dedicata al proprio lavoro, E un giorno diranno che io sono stato un coglione, un figlio di puttana, mi chiameranno in tutti i modi, sarò io il colpevole. E io vorrei essere innocente. Ma non so, mai, in nessun luogo, io sarò veramente innocente. Perché fra qualche anno, da qualche parte, camminando per strada, oppure dentro un locale, qualcuno verrà a dirmi che mi sono sbagliato di grosso. Che i giudici ipocriti come me dovrebbero starsene in galera. E non condannare colpevole e innocente la gente per le sue idee. Che viviamo nella democrazia più grande del mondo e che la gente sa come comportarsi e che non ha bisogno di un coglione, di un succhiacazzi come me che li giudichi. Forse i miei stessi figli mi condanneranno per quello che ho fatto, ma adesso, in questo momento, così doveva essere, così è stato. Quello stronzo, lui credeva di fare la rivoluzione con le sue parole. Le tragedie della vita succedono in una maniera così poco artistica che quasi fanno più male. L'immortalità, eccola l'immortalità. Un uomo non può salire al cielo senza che un altro non cada all'inferno. E Lenny Bruce mi ha esplicitamente chiesto di essere ucciso. E io ho accettato. Thank you.